Che dici, Zuzza, se ci assaggiamo questo prosecco di Eris? E mentre lo assaggiamo ce lo racconta lui, naturalmente, anche se dice che non può bere. Comunque c'è anche un discorso, appunto, sempre sul business. Avete la grappa che trovate in giro, quella invecchiata 7 anni, e in botti di rovere. Le botti sono smaltate e buttano dentro segatura o trucciolare. Questa è una cosa che qualcuno usa anche. No, no, no, SPA. Ah no, sì, lei vuole sì, dire sì, magari per invecchiarla hanno le autoclavi anche loro, scusa. E abbassano e alzano la temperatura, in un anno diventa vecchia 7 anni. Allora Eris, dici di questo prosecco, allora riassumiamo, questo, con quale uve è fatto? Come dicevo, c'è dentro un attimo di misto di uve, come avevo detto prima, ma la maggior parte è prosecco. Ma anche sul prosecco ci sono diverse varietà, perché c'è prosecco tondo, prosecco lungo, prosecco balbi, ce ne sono tantissimi come discorso. Sui cinque, che sono quelli che davo, come avevo detto prima, la caratteristica di migliorare i gusti, i profumi. La fermentazione che viene fatta in autoclave dura minimo sui 50 giorni, in maniera che sia fermentazione lenta e sempre controllata. Ma in genere quanto dura? Cioè la tua dura 50 giorni, sì. Ma una media di quelli una che fanno media puoi, una media puoi farla anche in 5 giorni, o come puoi farla anche in un giorno se fai aggiunta di carbonica. Questa è carbonica dalla fermentazione. Tu non aggiungi carbonica? No, no, perché bisognerebbe avere anche l'obbligo di mettere la fasciolina attorno al tappo. Beh, non sarà solo per la fasciolina, dai. No. Su quei grossi non si interessano, perché avendo conoscenze abbastanza altine non gliene frega proprio niente. Loro vanno a spasso con la finanza, cose, però noi che siamo piccoli non è che ci possiamo permettere, prima roba non mi viene neanche in mente per quello, però la situazione è questa. Come avevo detto anche a Simonetta, per esempio, tante grosse SPA si sono sempre prese il vino in Puglia. Ultimamente lo prendono Cile, Australia, perché adesso si pianta anche là, come quello che è stato impiantato in Romania. Vino composto. Migliaia di ettari. Cioè la materia prima sostanzialmente non proviene dai vigneti, sì, ci sta dicendo, delle colline del Prosecco, ma proviene dalla Puglia. Ce n'è tanta che viene dai vigneti, però... Viene, diciamo, integrata per quanto riguarda le grosse aziende. E si distingue perché anche, per esempio, come lei da me, a differenza che hai in linea d'aria di 100 metri, ti cambiano le vene di terra, perché tutta terra alluvionale è diversa. E per esempio, sembra strano, ci sono le zone che sono soleggiatissime e il vino viene peggiore. Senti, dici un perché po'. Perché è proprio questione di terra come discorso. Beh, quello insomma. Cioè, questo vino, veniamo al bicchiere adesso un attimo, a te piace? Lo dice, lo faccio io, ma mi piace o no? Ti soddisfa? Sei contento di questo vino? Di questo sì. Preferisco però quello col fondo. Adesso ce lo dice, ci ha portato soltanto, questo, e dice che preferisce soltanto l'altro. Soltanto con questo. Non ce l'ha. Se devi portarlo in giro, quello col fondo ti dà un problema, perché ti lascia il deposito. Allora, l'altro che fai tu, come si chiama, non mi ricordo. Ha un altro nome. Lo spumante. Sì. Quello col fondo. No. Quello è Glera. Quello è Glera. Perché è il nuovo nome che hanno dato al Prosecco, no? come discorso. In Carso si chiama glera, per esempio, dicono che è la stessa del prosecco. No, anche qua è la, diciamo, la glera. Adesso chiediamo al nostro esperto Gigi Brozzoni che ci fa il prossimo. Facciamo una cosa sul prosecco il prossimo anno, Gigi? Non lo vedo. È un argomento da approfondire. Tra grandi industria e piccole produzioni ci sarà qualcosa nel mezzo, chi lo sa. Dopo dico una, aspetta, finisco. Mi controllo sempre, viene controllata sempre anche la pressione in maniera che non sia tanto. Stai sempre continuando a dire del tuo vino, sì. Di questo, sì. Viene controllata la pressione. Perché per essere spumante deve avere una certa pressione. Ne trovi, per esempio, tanti in giro che ti scoppiano. E questo ti fa perdere il gusto, non lo senti più perché il prosecco è un vino delicato come discorso. Ma perché hai detto che tu preferisci quello col fondo, scusa? Perché diciamo è dalle origini mie. Ma tu lo fai quello? Sì. Ce lo devi portare il prossimo anno allora? No, perché ne ho diversi, infatti per quello, perché io lo vendo. Col fondo significa tantissimo. Quello che fermenta in bottiglia. Quello che fermenta in bottiglia, per quello che ne vendo tantissimo in Damigiana, tanto in Damigiana, perché sono vecchi clienti che vengono, anche giovani, che vengono a prendere solo qua a marzo-aprile, tempo di Pasqua, quando... Ma tu lo imbottigli quello anche? Sì. Bene. Manualmente, grazie. Manualmente si può fare, si può, una domanda, si... quanto deve fermentare in bottiglia? Dunque dipende dalla zona dove lo porti. Te la zona che è calda in 20 giorni, un mese è pronto. Ti vai per esempio su in montagna o su dentro le vecchie malghe, la ti può stare Anche più di un anno, perché il prosecco ha una caratteristica che è un vino giovane, quindi dovrebbe essere bevuto entro l'anno, no? Però se ti vai in certe zone la temperatura è stabile naturalmente e lui si conserva, se no ti ha il problema che si ossida e ti sa quel gusto marcialato, per capirsi, ti cambia le proprie caratteristiche, non più che ti senti il fruttato floreale, anche quel gusto un attimino da mandorla. Altro da dire su questo bicchiere? O se qualcun altro vuole dire qualcosa? Tanti, per esempio, gli piace che sia anche scaraffato, come viene fatto con quello col fondo, che loro ti perderebbe un attimo di gas. Ma là va a questione di gusti, per capirci. Bene, assaggiamo allora il secondo vino. Per sentire la differenza di i giorni di lavorazione o come che è fatto, basta lasciare una bottiglia aperta. Se la carbonica va via subito è aggiunta, se va via poco dopo vuol dire che è fatto con breve fermentazione. Dopo la temperatura, per esempio, di fermentazione si cerca di mantenerla sui 18 gradi, perché se no, appunto, come dicevo, essendo un vino delicato ti dà quel discorso di cosiddetto vino cotto.